Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sciopero generale in Catalogna. La regione secessionista si ferma per protestare contro le violenze della polizia spagnola. Il Nobel per la fisica agli scopritori delle onde gravitazionali. Festeggiano gli scienziati italiani che le hanno osservate. Si era sposato e aveva vissuto ad Aprilia, l'estremista che ha ucciso due ragazze a Marsiglia, 4 espulsi dalla provincia di Latina negli ultimi mesi. Manovra da quasi 20 miliardi per il 2018, 330 milioni per l'assunzione di giovani, la Corte dei Conti dice sulle pensioni non si torni indietro. Al via l'operazione di conversione dei fari, bando per 17 edifici costieri che verranno dati in concessione per farci ristoranti o alberghi. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Appunto, abbiamo il 349-238-6666, come sempre per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo anche in diretta video. Oggi abbiamo dall'altra parte del vetro Miriam Lucchetti in assistenza e Andrea Roccabella in regia. Iniziamo dunque la nostra giornata con lo sciopero generale in Catalogna. Ci colleghiamo con l'inviato del Sole 24 Ore, Luca Veronese. Luca, buongiorno e com'è la situazione oggi? Buongiorno a tutti. Quello di oggi è uno sciopero che si appoggia all'indipendentismo e ai sindacati che sono vicini ai partiti indipendentisti in Catalogna. E in realtà il Barcellona non si è fermata completamente come alcuni immaginavano, anche perché i grandi sindacati nazionali non hanno appoggiato questo sciopero, non volendo sommare il loro nome, la loro sigla alle rivendicazioni della regione catalana. E la situazione è abbastanza tranquilla, i negozi sono aperti, a Barcellona tutto procede con qualche intoppo, ma anche i collegamenti fuori dalla città per l'aeroporto e per le altre città dopo i blocchi della mattina sono rientrati e sono diventati abbastanza normali. C'è la questione politica aperta e quella è tutta un'altra partita, questa di oggi è solo un'ulteriore dimostrazione di piazza, di vicinanza della popolazione alla causa. A due giorni dal voto e a due giorni dalle violenze che ci sono state, Luca, ci parlavi della partita politica, ci puoi dare un'idea di qual è la direzione che potrebbe prendere? Il premier spagnolo Rajoy sta prendendo tempo, sta parlando con i partiti che sostengono il suo governo, ricordiamo un governo di minoranza, quindi debole, senza i numeri in Parlamento per forzare la mano. E questo a Madrid, mentre a Barcellona lo stesso governatore, il presidente della Generalitat Puigdemont, è costretto a fare i conti con una fronda interna, dicono qui, del suo partito, che non vorrebbe insistere, non vorrebbe andare alla dichiarazione unilaterale in indipendenza, ma preferirebbe tornare al dialogo. Diciamo che oggi, in una giornata tutto sommato tranquilla, nonostante lo sciopero, è il momento della riflessione. E non è detto che entro sera qualcosa possa cambiare rispetto a ieri, soprattutto quando ormai la situazione sembrava andare verso l'indipendenza unilaterale e la reazione con la forza di nuovo da parte delle autorità di Madrid. Grazie dunque, grazie a Luca Veronese, inviato del Sole 24 Ore a Barcellona. Noi adesso parliamo del Nobel per la fisica. Abbiamo in studio con noi Maurizio Melis. Buongiorno Maurizio, innanzitutto. Buongiorno. E ci sembra che siano in parte rispettate le previsioni, ce lo siamo detti stamattina prima di andare sì, in onda. Sì, no? Erano tra i più probabili vincitori del Nobel quest'anno, sì, assolutamente. Di chi si tratta dunque, che cosa hanno scoperto? Allora, si tratta di Rainer Weiss, Barry Barish e Kip Thorne, che sono stati i tre pionieri i cui studi per 50 anni circa di lavoro hanno portato il 14 settembre del 2015 per la prima volta a osservare delle onde gravitazionali. Sono state osservate finora 4 onde gravitazionali. Che cosa sono queste onde? Sono state previste da Einstein nella famosa relatività generale di Einstein. Che cosa dice? Cosa sono queste onde? Diciamo che qualunque corpo che abbia una massa, secondo la teoria della relatività, quando si sposta emette delle onde che sono un po' simili alle onde che potreste produrre mettendo la mano in uno stagno di acqua ferma. Diciamo che essendo lo spazio tridimensionale potete immaginare come quando scuotete una gelatina, per capirsi. D'accordo, queste onde si propagano nello spazio. Sono onde in cui è lo spazio stesso che si allunga o si accorcia trascinando con sé tutti gli oggetti che ci sono dentro, per cui anche il mio computer che ho qui davanti quando passa una di queste onde si allunga un pochettino e si accorcia un pochettino, ma sono onde, diciamo, questo fenomeno è estremamente labile, sono debolissime, ci vogliono fenomeni potentissimi come la fusione di due buchi neri per generare delle onde percepibili. Ebbene, ci si è riusciti per la prima volta appunto nel 2015 con degli osservatori che usano dei laser, in pratica calcolano la distanza tra due specchi e quando questa si cambia di un atomo o qualcosa del genere, vuol dire che è passata una di queste onde. E ce n'è anche una in Italia di questi osservatori, sì. Sono tre in tutto il mondo, quello italiano, che è una collaborazione europea, si chiama Virgo. E anche a loro un po' di questo Nobel credo se lo sentano addosso. Eh sì, in effetti hanno festeggiato. E Maurizio, fammi capire una cosa. Possiamo dire che una sorta di respiro dell'universo sono queste onde gravitazionali? Beh, diciamo che sono... sì, diciamo che è più una pulsazione, ecco, più l'elettrocardiogramma, ecco, forse, che non il respiro. Grazie a Maurizio Melis per questo aggiornamento e per questa spiegazione, speriamo abbastanza chiara, e ci sembra proprio di sì. Ci spostiamo a parlare del killer di Marsiglia, l'uomo che ha ucciso due ragazze l'altro giorno, che aveva vissuto a lungo in Italia. Aveva sposato un'italiana nel 2008, Ahmed Anaci, l'assassino di due ragazze alla stazione di Marsiglia, e aveva vissuto con lei per 3 anni ad Aprilia. Quando la storia è finita, ha lasciato la cittadina, ma forse senza tagliare i rapporti con i conoscenti. E così, subito dopo la sua identificazione in Francia, è stata perquisita la casa della suocera e sia lei che il marito sono stati interrogati a lungo, dice Il Messaggero. Mentre il Corriere della Sera riferisce che l'ex moglie ora si troverebbe in Nord Africa. Nella stessa zona di Aprilia visse nel 2015 anche Anis Amri, il terrorista del mercatino di Berlino. E sono stati individuati ed espulsi altri integralisti islamici, ma non risulta che Anaci li avesse frequentati. Alla polizia italiana era piuttosto noto come ladruncolo e spacciatore di piccolo cabotaggio. E proprio per un piccolo furto era stato arrestato a Lione 36 ore prima dell'attacco alle due ragazze. Non aveva il permesso di soggiorno e avrebbe dovuto essere espulso, ma alla fine era stato rilasciato. C'è ancora molto da chiarire in questa vicenda, compresa la rivendicazione dell'ISIS. Stando alle immagini, Anaci non ha ucciso quanto avrebbe potuto, ma si è accanito contro le due ragazze. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. 4 espulsi dalla provincia di Latina, lo avete sentito negli ultimi mesi, più avanti ne parleremo, e ne parleremo proprio col responsabile, col presidente del Centro Culturale Islamico di Latina, per capire qualcosa di più. Veniamo alla maxi operazione contro la camorra a Scampia. Migliaia di bussolotti e confezioni di droghe, anche pesanti, centinaia di munizioni di vario tipo, marijuana in fase di confezionamento, sono alcune delle cose ritrovate e sequestrate a Scampia, dove è in corso dall'alba una maxi operazione delle forze di polizia che stanno controllando molte abitazioni del quartiere. La prefettura di Napoli ha comunicato che si tratta di una vasta operazione di prevenzione anticrimine e di controllo del territorio alto impatto. Nel quartiere periferico a nord di Napoli, ben noto per la faida di Camorra di circa 12 anni fa, e come centrale di spaccio. Sono più di 700 gli uomini dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza impegnati nell'operazione, che coinvolge sia unità territoriali che di rinforzo. Per il bilancio finale dell'attività bisognerà attendere il tardo pomeriggio e la conferenza stampa programmata in prefettura. Laura Viggiano, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Napoli. Un'altra storia intanto emerge dalle pieghe di inchieste sulla camorra. Abituati a sentir tutto, ma non per questo assuefatti alla follia criminale. L'ultima storia di Gomorra che arriva da Scampia è oltre l'immaginazione da serie TV. Parte dall'uccisione di due donne, entrambe colpevoli di omertà. Una madre che non volle rivelare il nascondiglio del figlio, una 22enne che scelse la stessa strada per proteggere il compagno. In carcere ci sono i responsabili da 10 anni. Le sentenze di condanna sono state confermate anche dalla Corte di Cassazione, ma i PM della DDA di Napoli non hanno mai smesso di indagare. E quello che è emerso nelle ultime ore rende inutile ogni commento. È scritto in un verbale inedito che riporta le parole del pluripregiudicato pentito Pasquale Riccio. Chi è in carcere lavora per la camorra. Non si tratta degli esecutori dei delitti. Il loro silenzio e la vita in prigione è pagata profumatamente dai capiclan che invece a quei raid parteciparono. Quanto? 3.000 euro al mese e la gestione di una piazza di droga. Lavoro altamente remunerativo e famiglie al sicuro. Andalita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo all'economia italiana, le audizioni sul DEF, il documento di economia e finanza stilato dal governo. Questa mattina Istat, Banca d'Italia, Corte dei Conti. Sta parlando il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Tra poco ci arriveremo, iniziamo però dalle valutazioni delle altre istituzioni. Sulle prospettive di crescita tutti d'accordo in vista della manovra, ma sono molti gli alert lanciati da Istat, Banca Italia e Corte dei Conti che invitano al taglio del debito, a continuare sulla strada delle riforme strutturali, ad approfittare della congiuntura alla lotta all'evasione. Regna l'ottimismo sui numeri con alcuni distinguo. Innanzitutto per l'Istat, che rivede al rialzo il PIL dell'Italia nel primo trimestre a più 0,5%, segnali di miglioramento dell'economia trainata anche dalla domanda di investimenti in macchine e attrezzature, come spiega Giorgio Alleva. Nel primo semestre 2017 la crescita dell'economia italiana si è rafforzata. Anche se Alleva sottolinea, su sommerso, donne e giovani servono interventi mirati. Per Banca Italia il sentiero è stretto, ma va ridotto il debito pubblico. È un imperativo per l'Italia, sottolinea il vice direttore generale di Banca Italia Luigi Federico Signorini. La significativa riduzione del rapporto tra il debito pubblico e il prodotto nel medio termine è alla nostra portata. Lo mostrano tanto le nostre analisi quanto quelle del governo. E alla fine anche il presidente della Corte dei Conti Arturo Martucci parla di chance straordinaria per ridurre il debito e avverte che con la crisi si sono sacrificati i servizi e gli investimenti e anche sul fronte delle pensioni. Ogni arretramento su questo fronte esporrebbe il comparto e quindi la finanza pubblica in generale a rischi di sostenibilità. Anna Marino, Radio 24, il Sole 24 Ore. Come si diceva, sta parlando di tutto questo il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Audizione ancora in corso, quella di Padoan, che ha illustrato le linee portanti degli interventi che saranno contenuti nella prossima manovra, la quale partirà da un valore di quasi 20 miliardi di euro. Oltre allo spazio liberato con il deficit ci saranno circa 3,5 miliardi dalla spending review e 5,1 miliardi di nuove entrate che il Tesoro garantisce saranno in parte il risultato della lotta all'evasione fiscale, poi 600 milioni di euro per la povertà e fondi per le assunzioni dei giovani che arriveranno a 2 miliardi nel 2019. La manovra avrà un impatto positivo significativo, ha detto Padoan, sul tasso di crescita del PIL pari a 0,3 punti percentuali in ciascuno degli anni 2018 e 2019. In Italia, ha detto ancora il ministro, torna il consolidamento della crescita che guadagna robustezza, l'occupazione migliorerà nei prossimi mesi dopo il milione di posti in più rispetto al punto minimo di 4 anni fa. Ma sentiamo questo passaggio del ministro. Considerando l'usuale ritardo con il quale l'occupazione reagisce alla crescita del PIL, possiamo prevedere un ulteriore e progressivo aumento dell'occupazione nei prossimi mesi e anni. Alla luce degli ultimi dati Istat, nel 2016 gli investimenti fissi lordi sono aumentati più che in Francia e in Germania. Si stima che la crescita prosegua nell'anno in corso. Vi sono dunque le condizioni per un ulteriore rafforzamento della crescita già a partire dal terzo trimestre. Lo sforzo sui conti pubblici degli ultimi 10 anni è stato tra i più significativi dell'area euro, ha infine rivendicato il ministro. In generale ha detto resta ancora tanto da fare, non va allentato lo sforzo di riforma, occorre lavorare per trasformare la fase di uscita dalla crisi in una fase di ripresa robusta e strutturale. E per ora è tutto. Grazie a Duca, ad Alessandra Schepisi, ed è collegata sicuramente alla legge di stabilità, al DEF e in parte ovviamente alla legge elettorale la giornata politica di oggi. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Giornata politica, Simone, che ruota attorno ai lavori della Commissione Affari Costituzionali della Camera, alle prese con la nuova proposta di modifica della legge elettorale. Sono circa 320 gli emendamenti presentati al cosiddetto Rosatellum. Il testo, un mix tra proporzionale e maggioritario con la prevalenza del primo, vede la convergenza di PD, Forza Italia, Lega ed AP di Alfano, contrari Movimento 5 Stelle, MDP e Sinistra Italiana. Sono 4 gli emendamenti che sono stati dichiarati inammissibili per estraneità di materia. 2 di questi reintroducevano il Mattarellum ed uno prevedeva le primarie per i partiti per scegliere i candidati. Il maggior numero di emendamenti, ben 60, riguarda un tema in apparenza tecnico, ovvero il numero di firme necessarie per presentare le liste. È un numero elevato e si richiede la loro raccolta in modo spalmato su tutto il territorio, cosa che favorisce i grandi partiti e meno i piccoli, quelli nuovi e i movimenti. Il Movimento 5 Stelle promette allora battaglia. Qualcuno ha suggerito un appello al presidente Mattarella per fermare, viene spiegato, una proposta di legge incostituzionale fatta apposta per impedire ai pentastellati di andare al governo. MDP con Bersani parla di legge balorda e punta la minaccia verso il PD. Presenteremo candidati in tutti i collegi così da far perdere i Dem. Una tensione quella tra MDP e PD che potrebbe riversarsi su altri provvedimenti a partire dalla legge di bilancio. Staremo a vedere. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque anche a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo dall'Università Statale di Milano. Perché iniziamo dall'Università Statale di Milano? Perché lo sapete, lo abbiamo raccontato, ci sono stati i test che avevano messo per l'accesso a alcune facoltà umanistiche, questi test sono stati bocciati dal TAR. Che cosa succede? Succede che inizia l'anno accademico, le aule sono talmente piene che alcuni corsi evidentemente andranno chiusi. Traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, oltre che la pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta a video. La pagina Facebook di Radio 24 è quella di effetto giorno. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati dello sciopero generale in Catalogna, del Nobel per la fisica, della vicenda di Aprilia, l'estremista che ha ucciso due ragazze a Marsiglia, era là che si era sposato e aveva vissuto, della manovra del DEF e appunto abbiamo parlato anche di Camorra con questa grande operazione che c'è stata a Scampia. Nella prima parte della trasmissione, lo dico agli ascoltatori che ci hanno scritto su questo, non abbiamo parlato di Las Vegas e della strage drammatica che c'è stata ieri, le 59 vittime e 500 feriti, perché scoccia ricordarlo, ma dalle 13.45 fino praticamente alla fine della trasmissione abbiamo 8 minuti che si occupano di Stati Uniti e quindi generalmente non diamo grandi approfondimenti sugli Stati Uniti, ne parlerà sicuramente Mario Platero tra poco. Noi invece iniziamo il nostro giro d'Italia, iniziamolo come vi dicevo da Milano per parlare appunto della Statale di Milano. Siamo in linea con Giuseppe De Luca, che è il prorettore delegato alla didattica dell'Università Statale di Milano. De Luca, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Ne parliamo perché, ve lo dicevo prima, del traffico. C'è stata la decisione del TAR che ha bloccato i test di accesso a una serie di facoltà umanistiche. Ora è iniziato l'anno accademico, ci sono gli studenti che stanno entrando nelle aule e sono molti più di quante le aule ne potrebbero contenere. Tanto De Luca, mi sembra di aver capito che state pensando addirittura di chiudere alcuni corsi, di chiudere delle aule. Che cosa fate? Che cosa potete fare? No, diciamo, l'ipotesi della chiusura dei corsi non è considerata, perché innanzitutto la tutela degli interessi dei ragazzi è per noi prioritaria e fondamentale, vogliamo essere il più possibile inclusivi. Ci possono essere, quando il novero si sarà stabilizzato, dei provvedimenti relativi eventualmente al potenziamento dell'offerta didattica in questi corsi, vale a dire partire ulteriormente gli insegnamenti più numerosi, dividendoli ancora, ma questo è tutto da valutare in relazione a una dinamica che a me purtroppo, non solo nell'area di studi umanistici, ma complessivamente nelle università italiane, è sempre più complessa la via delle lezioni, perché i ragazzi vengono da percorsi che prevedono test, numero programmato, di orientamento, e quindi c'è poi una geografia che si va ridefinendo con estrema lentezza proprio per i legami che fra i diversi corsi ci sono, cioè un ragazzo sì, è in graduatoria in uno, è in graduatoria in un altro, rinuncia a uno, si libera un posto, quindi sale chi era dietro di lui, che a sua volta libera un posto, quindi oggigiorno sì, non è facilissimo da gestire. Non è facilissimo da gestire. Ci sono certo, le foto in queste ore che stanno circolando degli studenti che seduti fuori dalle aule, sostanzialmente, che prendono appunti mentre le porte delle aule sono aperte perché oggettivamente non ci sono gli spazi. Il rettore mi sembra di aver capito che potrebbe essere intenzionato, o state pensando a riproporre i test magari in una forma, mi permetta di dirlo brutalmente, De Luca, giuridicamente più appropriata per l'anno prossimo? Aspettiamo il merito rispetto all'ordinanza del TAR, quindi che è stata promessa per febbraio. In relazione a quello si prenderanno dei provvedimenti. Sicuramente il test per il numero programmato, i test di autovalutazione obbligatoria sono delle misure fondamentali, perché servono innanzitutto a orientare i ragazzi, non vogliono essere delle misure per escluderli. Tanti di questi ragazzi che adesso sono seduti oppure che sono in eccesso stanno già scrivendo perché a un certo punto cambiano idea, decidono di andare in un altro corso, perché non c'è nessuna forma di orientamento che gli consenta di mettersi un po' nel confronto con le aspettative del corso, se sì. ne rendono conto magari dopo un mese di lezione. Questo è sbagliato, perché come vede è un disagio inutile. La ringrazio, grazie a Giuseppe De Luca, prorettore delegato alla didattica dell'Università Statale di Milano. Vedremo che cosa succederà nel corso dell'anno. Tenete presente che le iscrizioni non sono ancora finite, perché c'è tempo fino al 16 di ottobre. Vedremo che cosa accadrà e se la statale riproporrà i test di accesso alle facoltà umanistiche che tanto hanno fatto discutere. Restiamo nel mondo dell'istruzione, però in questo caso ci spostiamo sulla scuola. Allora, che voi facciate lavoro d'ufficio o no, sapete perfettamente che i tempi di lavoro si sono drammaticamente allungati, e non solamente perché si lavorano più ore, in realtà si lavorano meno ore rispetto a quanto non fosse per esempio 20 o 30 anni fa, ma perché abbiamo tutti con noi uno smartphone, un telefono, uno strumento di comunicazione con il quale ci possono raggiungere più o meno dappertutto. Il messaggio WhatsApp del nostro capo che ci chiede appunto magari di spostare un orario, di presentarci dopo perché ha bisogno di coprire un'altra fascia oraria, l'email che ci ricorda una determinata organizzazione o dei determinati compiti da svolgere, e questo fatto sta avvenendo anche nella scuola, sollevando le proteste dei sindacati. Una protesta partita in questo caso, e il nostro giro per l'Italia dunque ci porta in Veneto, dalla FLC-CGIL di Vicenza. Siamo in linea col segretario Carmelo Cassalia. Buongiorno Cassalia. Buongiorno a lei e a tutti gli telespettatori. Che sono radioascoltatori, ma va bene lo stesso, non c'è nessun problema. Che cosa succede? Succede che, lamentate voi, i professori, i docenti sono invasi da messaggi WhatsApp e email della scuola che continuamente gli ricordano che ci sono delle nuove circolari da firmare. C'è un esempio su tutti che viene riportato in questo servizio della cronaca locale di Repubblica: l'Istituto Superiore Newton Pertini di Campo San Piero, siamo in provincia di Padova, che nel 2016-2017 ha tirato fuori 725 circolari, praticamente una media di due al giorno, se si contano tutti i giorni, compresi Natale e Pasqua. Allora Cassalia, qual è il punto? Perché succede un po' a tutti questa cosa, quindi non si vede perché non debba succedere anche agli insegnanti. Certo, gli insegnanti sono una categoria che presenta delle peculiarità, non penso di poterla collocare alla stessa stregua dei dipendenti pubblici, perché svolgono un lavoro che diciamo più che da dipendenti sono dei professionisti della scuola e quindi il loro orario di lavoro consta di un orario fisso settimanale articolato in 5-6 giorni e poi delle ore che vengono definite ore collegiali, per cui sono delle ore che ovviamente non sono collocate nel normale orario di lavoro, ma vengono diciamo programmate all'inizio dell'anno, ma poi nel corso dell'anno possono subire variazioni o oscillazioni a seconda delle dinamiche che ci sono all'interno delle scuole statali. E va bene, ma qual è il problema del ricevere la notifica su un argomento che poi riguarda la vita lavorativa degli stessi insegnanti fuori dall'orario di lavoro? Ecco, allora guardi, dopo la dematerializzazione ovviamente si è sempre più fatto ricorso a queste modalità di comunicazione che ovviamente non vanno demonizzate per certi aspetti, ma vanno regolamentate. Può facilitare il lavoro dell'insegnante e quindi in qualche modo avere dei risvolti positivi anche dal punto di vista Cassalia, però le posso chiedere di essere molto preciso. Quello che dico è: dov'è il problema? Qual è il problema? Può spiegarmelo? Certo, il problema è il seguente. Se io ricevo una mail alle 10 di sera e mi si chiede di andare a scuola il giorno dopo anticipando di 2 ore, 3 ore il mio ingresso a scuola, ovviamente questo diventa un problema, perché sono delle comunicazioni che rivestono un carattere di urgenza e quindi richiederebbero che io sia reperibile 24 ore su 24. Casalia, però io posso rispondere, mi dispiace, non posso. È nei miei diritti di lavoratore dire, se tu mi, alle 10 di sera mi scrivi e mi dici vieni alle 7 di mattina e io non posso, ti dico, guarda, non posso e pazienza. Certo. Non è che il giorno dopo il dirigente scolastico mi licenzia per questo, eh. Allora, dal punto di vista normativa, certamente, io posso anche dire non ho letto il messaggio e per cui non ottempero a quelle indicazioni, però nel momento in cui io rinuncio sento un senso di responsabilità, sì, che mi angoscia e mi fa star male, perché comunque ho messo in difficoltà l'istituzione scolastica, perché quel giorno potrebbe succedere che io, a causa del mio rifiuto, la scuola possa subire delle, come dire, possa subire dei danni, sì, ovviamente conseguenti al fatto che io non sono andato in servizio, per cui le classi rimangono scoperte e con evidenti ripercussioni sull'andamento delle attività didattiche e sugli alunni. Da sempre. Però le posso dire Cassalia, mi permette di dire una cosa, che questo succede, so che la scuola non è un'azienda, non possiamo paragonarlo, per carità, e quindi già lo dico con gli ascoltatori, già lo dico con lei, però succede in tutte le aziende, succede dappertutto, e c'è anche, se vuole, nelle persone, non in tutti ovviamente, c'è anche questo senso di colpa per certi versi quando ti scrivono e tu non puoi fare una determinata cosa, quindi non, sinceramente non vedo il problema. Guardi, l'azienda, come dice lei, è un mondo a parte e risponde a delle logiche di mercato. Noi non siamo in un'azienda e noi ci occupiamo di formare i futuri cittadini del domani. Abbiamo delle responsabilità enormi e questo ci obbliga ad essere dei professionisti seri. Nel momento in cui io metto in discussione, no, il piano delle attività, l'attività programmata, ovviamente le conseguenze sono che dirette sul piano dell'offerta formativa e quindi sul successo formativo degli alunni. Nel momento in cui lei mi paragona questo all'azienda, ovviamente siamo su due piani. Ma come le ho detto, siamo su due piani diversi, però sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che succede a tutti quanti noi una cosa di questo genere, quindi non è che gli insegnanti hanno più senso di responsabilità rispetto a un essere umano normale che lavora in un'azienda e magari tiene al lavoro che fa altrettanto e magari ha un ruolo sociale importante, quindi dico non vedo il problema e la differenza. Sì, il ruolo degli insegnanti ovviamente è come le dicevo in premessa è peculiare. I docenti lavorano anche a casa, anche nel fine settimana, perché devono assolvere delle funzioni, alla funzione docente, che sarebbe quella della correzione dei compiti, la pianificazione delle attività. Per cui avere questo ulteriore aggravio, dover vivere con l'angoscia, perché di questo si tratta, perché diversi docenti ci hanno comunicato di sentire proprio questa la pesantezza di queste richieste, che a volte avvengono in tempi molto stretti e fino a diventare uno stress, un, sì, incubo da chiamata da telefonino, da SMS, da messaggio. Per allora, cui questo li pone in una condizione stressante per cui non riescono ad essere sereni e questo compromette anche il proprio lavoro e le relazioni tra colleghi e con gli studenti, immagino, questo è quello che sostenete. La ringrazio, grazie al segretario provinciale della FLC CGIL di Vicenza, Carmelo Cassalia, buona giornata, buon lavoro. Grazie anche a voi. L'angoscia da messaggio WhatsApp, che angoscia terribile. Pensiamo ai fari, lo Stato ne mette 17 a concessione. Riconvertire un faro in hotel o ristorante è quanto consente il terzo bando lanciato da Demanio e Ministero della Difesa per 17 tra fari ed edifici costieri che verranno dati in concessione fino a 50 anni. 17 strutture lungo la costa italiana, dal Veneto alla Sicilia, con regioni new entry come Liguria e Marche. Spiccano nella laguna veneta l'isola di San Secondo, ex monastero, e l'ottagono Karoman, isola fortificata realizzata nel 400 contro la minaccia dei turchi. Ma anche il faro semaforo nuovo a Camogli, Colle dei Cappuccini ad Ancona e ancora le torri Montepucci a Peschici ed Ayala a Taranto. I tempi sono più stretti per le concessioni della difesa, fino a 19 anni. Con i bandi precedenti sono state assegnate 24 strutture, che hanno creato 300 posti di lavoro e investimenti diretti per 17 milioni di euro. Troverà anche il terzo pacchetto di immobili una via per la valorizzazione? Paola Dezza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi la prossima tappa sarà a Bergamo. Bergamo, dove abbiamo una serie di condannati, tra l'altro per rapina, droga e via dicendo, che in 10 anni non sono stati mai cercati, mai, mai. Quindi sono andati in prescrizione, è come se il reato non fosse mai esistito. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: lo sciopero generale in Catalogna, la regione secessionista si ferma per protestare contro le violenze della polizia spagnola. Il Nobel per la fisica va agli scopritori delle onde gravitazionali. Si era sposato e aveva vissuto ad aprile all'estremista che ha ucciso due ragazze a Marsiglia. Manovra da quasi 20 miliardi per il 2018, la Corte dei Conti sulle pensioni non si torni indietro, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo. Qualche ascoltatore, un'ascoltatrice, non lo so, scrive via SMS tra i tanti messaggi di ascoltatori che rimanevano perplessi di fronte all'intervista che abbiamo fatto poco fa con il sindacalista della FLC-CGIL di Vicenza in merito, per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, al fatto che lamenta il sindacato che gli insegnanti ricevano troppe notifiche via WhatsApp e via email sulle attività magari da fare il giorno successivo, sulle circolari. Molti ascoltatori erano perplessi rispetto alla posizione del sindacato. Un'ascoltatrice o un ascoltatore mi dice: caro Spezia, ti stai dimostrando di non avere alcuna idea di cosa significhi il mestiere fondamentale in una società civile di insegnante. Lo so perfettamente cosa significa il mestiere di un insegnante in una società civile. Ho 3 figli, vanno a scuola, hanno anche degli ottimi insegnanti, tra l'altro. Diverso è come imposti il rapporto di lavoro e il fatto che possa creare un problema da un punto di vista sindacale, addirittura il fatto che tu riceva delle notifiche via WhatsApp o via email, che ormai è la modalità consueta e quotidiana di lavoro. Sinceramente mi sembra l'ultimo dei problemi da affrontare della scuola, se proprio mi posso permettere. Poi, per carità, c'è gente che potrà avere idee diverse. Mohamed Manai è presidente del Centro Culturale Islamico di Latina. Buongiorno Manai, benvenuto. Buongiorno a voi. L'abbiamo chiamata perché abbiamo visto le notizie di queste ore che ci hanno raccontato che l'estremista che ha colpito 2 donne e le ha uccise a Marsiglia aveva vissuto ad Aprilia. Aprilia è una città che si trova a metà strada tra Roma e Latina. A Latina nei mesi scorsi sono state espulse 4 persone proprio per sospetti o legami col terrorismo islamico o più che altro proselitismo, cioè propaganda dell'estremismo islamico. Vorrei capire da lei, Manai, se ha la sensazione che ci sia un problema, in particolare per quanto vi riguarda, per quanto riguarda la provincia di Latina. Veramente qua in Latina non ci sono dei problemi gravi, diciamo, però per questo sono stati mandati via per le propaganda quelle che fanno. E noi l'abbiamo denunciati alla polizia e la giustizia ha fatto il corso suo e l'hanno mandati via. Quindi l'avete denunciati voi sostanzialmente, perché l'avete beccati voi che facevano questa propaganda? Certo, sì, su questa sì. Sì. Ma chi ve l'ha segnalata? Se ne è accorto lei direttamente? Se ne è accorto qualcun altro? No, sì, sono delle organizzazioni, quelle che abbiamo, il centro, e loro hanno denunciato questi. Sì, e di che origine erano? Erano tunisini? Sono tunisini, egiziani, la maggior parte sono tunisini. E la comunità islamica di Latina, quante persone conta? E sono parecchio, per esempio il venerdì nella preghiera saranno, per l'immigrazione, quelli che sono venuti adesso saranno 1000, che arrivano ogni venerdì e diciamo contiamo dal 700 a 1000 persone, però gli stracomunitari, quelli che si trovano qua, specialmente i musulmani, saranno di più di 7000 che si trovano a Latina e provincia. Ma mi dica una cosa, ce l'avete una moschea o dove pregate il venerdì? Sì, noi oddio, una sala preghiera, non lo chiamiamo moschea perché moschea è una parola grande. È una sala preghiera, purtroppo quella che abbiamo dal 92 fino adesso, si trova in via Chiascio. Ma che cos'è un capannone? Cos'è un capannone? È specie di un capannone, un locale diciamo decente, non è che male, però è poco adesso per noi. Prima perché la comunità è piccola, adesso è diventata adesso, tanto. Adesso siete mille il venerdì, è certo. Grazie Mohamed Manai, presidente del Centro Culturale Islamico di Latina, buona giornata. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi il nostro Mario Platero che ci parlerà, come già si diceva prima, anche di Las Vegas. Ci risentiamo alla fine per i saluti.